Allora ho infilato una mano alla ricerca di un tubo e ho trovato qualcosa di freddo e di metallico, che però non aveva la forma di un tubo, aveva la forma di una scatola. Ho spostato una piastrella, l'ho tirata fuori ed era una scatola, di latta, grossa quanto un libro e sigillata. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Lunedì 8 novembre 2010, sono le 16.07, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Diagnosi, una donna così tu non la reggi. No. Cura, scaricala. Ma come faccio? Te ne vai, piano piano. Ma certo, ma come l'affronto? Ma che te ne frega? Che le dico? Niente, te ne vai e non ti fai più vedere. Ma io l'amo! Zitto, ti sente? Queste sono cose secondarie, senza importanza. Ma poi ti basta. Anch'io ho sofferto. Ho sofferto come un cane per quasi tre quarti d'ora. Allora, funziona così. Minosse è il re di Creta. Creta è la potenza più potente dell'antica Grecia, all'epoca, ok? Minosse è il re e chiede a Poseidone un toro. Perché vuole sacrificarlo a Poseidone stesso per ringraziarlo della floridità, della pesca, insomma. Vuole comunque sacrificare questo toro a Poseidone. Poseidone gli regala un toro bellissimo. È un toro bianco, magnifico, al punto che Minosse, quando lo vede, dice: questo però sacrificarlo è un peccato. E allora se lo tiene per le sue mandrie, per farlo accoppiare con le vacche. Poseidone però gliel'ha regalato per farlo sacrificare a se stesso, a Poseidone, quindi un pochettino questa roba lo infastidisce. E allora cosa fa? Fa innamorare la moglie di Minosse, cioè Pasifae, che è una donna bellissima, del toro. Il toro bianco, quello che lui ha regalato a Minosse. Insomma, questa donna, anche se è una donna e l'altra è un toro, si innamora di questo toro. Si innamora al punto che si accoppia con il toro e da questo accoppiamento nasce un figlio, che è il Minotauro. Minotauro, che tra l'altro si chiama Asferio o Asferione, questo era il nome proprio di quella bestia mezza uomo e mezza toro. Minosse a questo punto scopre la nascita di questo figlio che non è suo e lo chiude in un labirinto, ok? E fino a qua ci siamo, il Minotauro chiuso nel labirinto. Ora, visto che Atene era meno forte di Creta, Atene doveva portare ogni anno 7 fanciulle e 7 fanciulli nel labirinto da darle in pasto al Minotauro, perché il Minotauro si nutriva di carne. Quindi ogni anno Atene doveva portare questi 14 ragazzetti nel labirinto. Un giorno Teseo, che è un giovane ateniese, dice: ribelliamoci a sta roba. Va a Creta e decide di uccidere il Minotauro. Mentre a Creta chi incontra? Incontra Arianna. Arianna vede Teseo, se ne innamora e gli regala un filo rosso che lei tiene a un'estremità del labirinto, in modo che lui possa uscire dal labirinto dopo che ha ucciso il toro. Teseo entra, uccide il Minotauro e grazie al filo di Arianna esce dal labirinto. E fino a qui tutto bene, no? Lo sappiamo tutti. Ora, che cosa c'entra? Voi direte: Bonini è impazzito, Olcaccia è impazzito, un po' anche sì, ma cosa c'entrano, amici miei, con il mito del Minotauro e con Arianna? In qualche modo c'entra, e ha a che fare un po' col fine settimana che ho passato, con quel "tu vai via, piano piano, zitto zitto, non dici niente". Arianna c'entra perché? Perché fino a qua tutti lo sanno. Arianna aiuta Teseo ad uscire dal labirinto, Teseo la ringrazia e i due sono innamorati. Quindi, dopo che sono innamorati e che Arianna ha salvato Teseo, perché l'ha fatto uscire dal labirinto, Teseo la carica sulla sua nave e fa rotta verso Atene. Mentre però torna ad Atene, viene preso da dei sensi di colpa. Non si capisce se perché Teseo ci aveva un'altra, oppure se faceva proprio brutto arrivare con la figlia del nemico che aveva conquistato a casa sua. Sta di fatto che su un'isola deserta che si chiama Nasso, Teseo abbandona Arianna. E Arianna rimarrà per tutta la vita abbandonata su quell'isola deserta. Sono le 16:11 minuti, questa è Radio 24, il programma si chiama Io sono qui e oggi si parla di scuse da inventare per scaricare delle donne con cui sei stato, di tubi dell'acqua rotti e di oggetti nascosti trovati in casa propria. 800 24 0024 oppure 349 238 6666, perché in questo fine settimana delirante io mi sono trovato con 5 diti d'acqua in casa, ho rotto quello che dovevo rompere e ho trovato una cosa che qualcuno aveva nascosto in casa mia. Avete presente quando qualcuno anni prima ha nascosto delle cose in una casa, in un garage, in un giardino e voi anni dopo le ritrovate? 800 24 0024 3489 238-6666. Prima, ad esempio, Vittoria mi raccontava che una sua amica è andata a vivere in una casa qui a Milano, giusto? In una casa nuova qui di Milano, che è stata ricavata da un vecchio albergo. Il suo appartamento in particolare è stato ricavato dalla hall dell'albergo. Rifacendo i lavori per sistemare la casa, in questa casa lei ci ha trovato la cassaforte di quell'albergo. Tutti quanti abbiamo pensato: cosa c'era dentro? Non lo sapremo mai, perché l'amica di Vittoria non ha voluto aprire quella cassaforte. 800240024 oppure 349-238-6666. Magari non avete ritrovato una cassaforte in casa vostra, però avete trovato, ad esempio, se era la casa dei vostri genitori, delle lettere oppure delle cartoline o delle foto che appartenevano a loro, magari dei vestiti che avevano nascosto chissà dove, chissà perché, o magari c'erano semplicemente finiti là dietro e che poi in quel posto dove voi avete ritrovato. Ad esempio, Serena scrive: io ho trovato un reggiseno dietro al calorifero della mia nuova casa. Io nella mia casa dove mi sono appena trasferito ho trovato abbandonata della biancheria intima, probabilmente dal fidanzato della precedente inquilina, e una lampada che devo capire come appendere. 800240024. Ma ad esempio Daniela invece fa la scoperta più interessante che finora è arrivata. Nella mia mansarda sui tetti di Torino, un giorno decisi di mettere il condizionatore. Così venne il tecnico per installarlo e dovette bucare il muro. Scoprì allora che da sotto al lucernaio potevo, allargando il buco in modo da entrare, percorrere tutto il perimetro della mansarda. Al buio, armata di pila, sbucciandomi le ginocchia, sperando in un tesoro, ho trovato un plico di fogli arrotolati, ingialliti, e una pipa. Erano gli schizzi di un artista vissuto molti anni prima in casa mia, e fu bellissimo. 800240024 349-238-6666. Io ve lo racconto adesso che cosa ho trovato in casa mia. Se voi avete trovato qualsiasi cosa che sia appartenuto ai vostri genitori, se siete in casa loro, se siete andati a vivere in casa loro, o del vecchio proprietario, se siete andati a vivere in una casa nuova, o nel giardino anche. Il giardino è un luogo in cui, scavando, ovunque in Italia scavando, trovi un muro romanico, giusto? Trovi una villa pompeiana, trovi una moneta romanica, romana, oppure nel vostro garage, se avete trovato qualsiasi cosa che non apparteneva a voi e ne avete fatto tesoro. 800240024. Secondo la definizione, il mito racconta una storia sacra. Riferisce un avvenimento che ha avuto luogo nel tempo primordiale, cioè il tempo delle origini. Quindi è il racconto di una creazione, cioè si narra come qualcosa è stato prodotto e come ha cominciato ad essere. I miti praticamente spiegano agli uomini il perché delle cose, ed è per questo che ancora oggi ce li raccontiamo. Attraverso i miti cerchiamo di ottenere spiegazioni su ciò che non comprendiamo o che sfugge al nostro controllo. La prima volta che ho capito che non tutto quello che mi accadeva era frutto della mia volontà o era sotto il mio controllo, mi sono sentito abbastanza spiazzato. Cioè, pensare che il mondo potesse continuare indipendentemente da me mi sembrava un'ingiustizia terribile. Deve essere stato così anche per Omero, per i suoi colleghi, che secoli fa hanno creato la mitologia in modo da dare una spiegazione alla realtà. I miti alla fine sono una forma di superstizione, no? Sono come le religioni, come le tradizioni, come le fedi calcistiche. Sono una mappa che ci creiamo per cercare di raccapezzarci nel labirinto di caos che ci circonda. Ma le cose che succedono senza il nostro controllo succedono e basta. Che siano colpa di qualcuno oppure no, che siano inevitabili oppure no. Tutto quello che possiamo fare è cercare una Arianna che ci lanci un filo e ci tiri fuori dal labirinto. Arianna si chiama la ragazza con cui sono uscito venerdì sera. Dopo la diretta sono tornato a casa, mi sono fatto la doccia, mi sono accorciato un po' la barba, ho pure messo il gel sui capelli. Il risultato è stato che sembravo un liceale senza i brufoli. Mi sono infilato una camicia e un paio di jeans e sono andato al mio appuntamento. Allora, lei abita dalle parti dello stadio di San Siro, che è a Milano. E io sono passato a prenderla lì. Ho citofonato e lei mi ha detto che stava scendendo. Mi ha fatto aspettare 20 minuti. E già questo mi ha innervosito non poco. In più ero agitato perché sapevo che questa era veramente la prova del 9. Voglio dire, non c'è altra situazione più della prima uscita con una donna in cui si mette in gioco la propria sincerità. No, di solito è tutto un valzer di detto, non detto, accennato, sottinteso, di affermazioni, negazioni, delle quali, se si ha le prime armi, chiaramente non si capisce un bel niente, no? Per questo che di solito a 30 anni uno dovrebbe districarsi meglio che a 17 in situazioni come queste. Purtroppo però, non è sempre così. Insomma, per non venire meno alla mia promessa, appena arrivata le ho fatto notare che era in ritardo. E lei ha fatto spallucce, come a dire: che vuoi, sono fatta così. Siamo andati a mangiare in un ristorante in una zona di Milano che si chiama L'Isola. È un locale in cui cucinano piatti veneti, ha dei vecchi tavoli in legno e un soppalco in cui si sta piuttosto tranquilli. All'inizio lei parlava poco, come se non ci fossimo già incontrati in mensa, al bar, nei corridoi, quindi è toccato a me trovare qualcosa da raccontare. Dopo un paio di bicchieri però le si è sciolta la lingua evidentemente e ha cominciato a raccontarmi tutto, ma proprio tutto. Che lei fa un lavoro d'ufficio ma che non le piace, che ha un progetto molto ambizioso perché sta scrivendo un libro. Mi ha detto che è un romanzo di formazione, un po' alla giovane Holden, però al femminile, in cui si parla di una ragazzina che scappa dal collegio di suore in provincia e arriva a Milano. Ha detto anche che c'è un grande editore che è interessato, che se volevo me ne faceva leggere un capitolo. Dice che lei ha sempre voluto scrivere, che al liceo una volta la professoressa di italiano diede un tema che aveva come titolo Descrivo il mio migliore amico e che quando lo riconsegnò la professoressa disse a tutta la classe che se un amico l'avesse descritta avrebbe voluto che lo facesse come lei aveva fatto nel suo tema. La guardavo parlare e nel frattempo capivo tutto. O meglio, lo avevo già capito, molto prima. Credo che si impieghino 2 secondi a capire che cosa si vuole da una serata. Anzi, ci metti 2 secondi a capire che cosa accadrà, ma soprattutto che tipo di relazione sarà con la persona con cui stai uscendo. Anzi, forse 2 secondi sono anche troppi, ne basta 1. E mentre lo capivo, mi ricordavo anche della mia promessa. Sapevo che sarei arrivato al dunque presto, ma mentre ancora ci stavo pensando, lei mi ha anticipato e ci è arrivata molto prima di me. Mi ha preso la mano e mi ha detto... Matteo, io però devo dirti la verità. Ho un fidanzato. Bene, anch'io devo dirti la verità. Voglio venire a letto con te. Insomma, non abbiamo nemmeno preso il caffè e siamo andati da me. Mentre ci stavamo baciando pensavo che alla fine forse questa maledetta sincerità pagava e come, no? Cioè mi stavo risparmiando un sacco di tira e molla, di finti intendimenti, di fraintendimenti. Tutte quelle cose che si dicono in questi casi, robe tipo... Sai, non vorrei andare a letto con te perché tu mi piaci davvero. Oppure altre cose... Se preferisci ti riporto a casa, però questo momento sento che non tornerà mai più. Insomma, quelle frasi che ognuno ha nel proprio repertorio, che però in pubblico non tirerebbe mai fuori nemmeno sotto tortura. Insomma, il clima della serata è stato decisamente sereno, un po' all'insegna del basta dirlo. Il clima si è fatto un po' meno sereno al momento dei saluti. Credo che la differenza che passa tra quello che desideriamo un attimo prima di un orgasmo e quello che desideriamo un attimo dopo sia il fondamento su cui si basa il monumento che celebra la differenza tra uomini e donne. Una differenza che in 2 parole può essere sintetizzata con abbracciami e vattene via. Sì, lo so, sto esagerando, però insomma la verità per essere compresa ha bisogno di macro esempi. Dunque siamo rimasti a letto per un po' guardando il soffitto, o meglio io guardavo il soffitto e lei era raggomitolata al mio fianco manco fossimo fidanzati da una vita. Sarà strano, ma a me questo pare proprio una confidenza esagerata. Mi accarezzava un braccio e mi dava un tale fastidio che lo sentivo formicolare. Ho dovuto far finta di soffrire il solletico per poterlo spostare. Mi sono domandato se non dovesse tornare da un suo fidanzato, ma da come se ne stava tranquillamente a letto pareva proprio non avere alcuna intenzione di andarsene. Però io dovevo trovare una scusa per mandarla via, visto che non avevo intenzione invece io di dormire con lei nel mio letto. Avrei potuto dirle che aspettavo qualcuno, però non sarebbe stato credibile e soprattutto avrei mentito. Eppure, in quel momento, dire la verità mi è parso più difficile che mai in questi 2 mesi. Però ho fatto un bel respiro e l'ho detto. Arianna, io voglio dormire da solo. Lei non ha detto nulla. Poi ha bofonchiato qualcosa tipo 5 minuti e me ne vado. Io le ho detto che non c'era nessuna fretta, mi sono alzato, ho sceso le scale del mio letto soppalco, felice per non essere venuto meno alla mia promessa, e lì ho trovato la sorpresa. Sul pavimento c'erano 5 dita d'acqua. quando ti svegli di notte e hai l'acqua in casa. Allora, visto che era gelida, la prima cosa è stata infilarmi un paio di stivali. Poi ho cercato di capire da dove arrivasse tutta quell'acqua. Sono andato in bagno. La tazza stava buttando fuori acqua come fosse una pentola che bolle piena fino al colmo. Ci ho infilato le mani sperando di trovare qualcosa che ostruiva, ma ovviamente non c'era nulla che ostruiva perché l'acqua usciva a litri. Ho cercato una cassetta degli attrezzi, ma la mia l'avevo venduta l'anno scorso, quindi attrezzi in casa non ce ne avevo. Ho recuperato un paio di stracci da pavimento per tamponare l'acqua sulle piastrelle. L'unica nota positiva è stata che Arianna non ha opposto alcuna resistenza. Anzi, in 3 minuti era vestita, aveva chiamato un taxi e mi aveva salutato con un bacio sulla guancia. Erano le 3 di notte, avevo la casa allagata e sembravo un pescatore, di quelli che si vedono in riva ai fiumi. Solo che ero nel mio bagno, senza sapere cosa fare e senza gli strumenti per farlo. Ho chiamato l'amministratore di condominio, ma il telefono ovviamente era spento. Ho bussato al vicino, ma non c'era, perché era a casa sua, a Perugia. Allora mi sono seduto sul divano e ho capito che solo io potevo fare qualcosa. E l'unica cosa che potevo fare era spaccare delle piastrelle per trovare la perdita. Col senno di poi, ovviamente, questa cosa so che è stata un'enorme vaccata, ma in quel momento ero disperato, quindi ho preso il primo oggetto contundente che ho trovato, cioè la mia racchetta da tennis nuova, e ho iniziato a colpire il water alla base per staccarlo. Dopo 4-5 dritti che manco Nadal, la tazza si è crepata e si è spostata di una decina di centimetri. Il buco era pieno d'acqua. Con il manico ho spaccato le piastrelle, ho spostato qualche mattone sbriciolato, ma era tutto nero e buio e non capivo niente. Allora ho infilato una mano alla ricerca di un tubo e ho trovato qualcosa di freddo, di metallico, che però non aveva la forma di un tubo. Aveva la forma di una scatola. Aveva la forma di una scatola. Sono le 3 del mattino, sono in mutande nel mio bagno che è allagato e sto spaccando un water con una racchetta. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Sì, ho trovato una scatola. Non chiedetemi cosa c'è perché ancora non l'ho aperta. Era una scatola e ve lo racconto dopo. Adesso sentiamo la borsa. Prima però mi dicono che la moneta è romanica, non romana, perché è della Roma antica. 80024 0024 349 238 6666. La borsa e dopo io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo all'interno di un camper, direi. O di una roulotte. O di un furgone. Comunque si vede incorniciato il finestrino da cui guardiamo quello che c'è fuori. Quello che c'è fuori sono delle vacche al pascolo. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vacche che stanno pascolando e che quindi stanno mangiando l'erba. Sembrano proprio in posizione, sembra quasi finta la foto perché c'è una collina che digrada leggermente, quindi loro sono tutte in bella vista, dal basso verso l'alto. In cima alla collinetta ci sono delle piante molto verdi e delle case di montagna, direi, anche per il semplice fatto che ci sono le vacche e perché le case hanno i tetti a spiovente in legno. C'è qualche frasca giusto sulla parte destra del finestrino del camper, immagino, e la luce è una luce serale, potrebbe essere... Essendo estate potrebbero essere le 8, le 7 o le 8 di sera. E comunque, ma c'è nulla con le corna. Quindi è un toro. Ma i tori pascolano, certo. Sono erbivori e quindi anche i tori pascolano. Sono Rocco Panzavolta, 44 anni, abbandonato in mezzo alle mucche nelle Dolomiti sopra Bolzano. Io sono qui. Rocco è fantastico, ma ci ha mandato il suono delle mucche anche. Ma se le registra... Ma Vittoria, te l'ha mandata così. Quindi i campanelli erano veri o... Cioè, era in mezzo a queste mucche qua. Però non abbiamo capito se questo è un camper o una roulotte. Sì, è un camper. È un camper. Perfetto. La foto è, come al solito, è sul sito di Radio 24, www.radio24.it, alla pagina Io sono qui. La trovate però anche spulciando tra... le foto di Facebook, Matteo Caccia, io sono qui, Facebook, vabbè, insomma, entrate in Facebook e trovate il profilo. Elisabetta, a proposito di cose ritrovate in casa o in giardino, uno mi chiede che fine ha fatto la cassaforte. Vittoria, è là la, cassaforte, semplicemente la murata. La murata? No, la murata. La murata è chiusa. Elisabetta, quando comprammo il terreno su cui abbiamo costruito la casa e iniziarono a scavare per le fondamenta, trovammo una parte del terreno composto prevalentemente da ciottoli di varie misure, tutti ammassati lì. Mio suocero si ricordò che da giovane sua madre lavorava nel campo dietro a casa nostra e prima della semina levavano a mano i ciottoli troppo grossi. Ecco, noi li abbiamo ritrovati lì. 800240024 349238666. Andiamo da Massimiliano a Milano. Pronto Massimiliano? Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno Matteo, buongiorno. Stai bene? Tutto bene, grazie. Senti, tu che cosa hai ritrovato? Noi siamo andati a visitare una casa di un lontano cugino che era mancato, mm-hmm. in campagna del Torinese, a Montanaro, vicino a Chivasso, per la precisione. Ma quanti anni aveva? Ma non tantissimi, è quasi un'ottantina, possiamo dire, non era proprio... Tu quanti ne hai, scusa Massimiliano? Io 28. Ah, ok, perfetto. Era un cugino di terzo grado. Sì, non stiamo lì a fare tutto l'albero genealogico. Niente, tra le sue cose abbiamo trovato il diario del padre di questo cugino che aveva fatto la guerra ed era andato a fare la colonizzazione. Libia, quindi? In Libia. Nord Africa. Un diario scritto a mano da quando lui aveva iniziato a fare il militare a Napoli fino a tutto il viaggio che ha fatto in Libia, tutte le scoperte che avevano fatto quindi lì. Quindi tu te lo sei preso e te lo sei letto? Sì, me lo sto leggendo perché essendo scritto a mano con una grafia molto bella ma molto fitta ci vuole un po' per leggerlo. E c'è qualche episodio, Massimiliano, che ti ricordi particolare della vita in guerra in quegli anni? Io sfortunatamente sono arrivato che lui gli hanno appena detto che deve essere trasferito là. Però lui, piemontese, doc, si trovava già a Napoli, quindi per lui era già... Diciamo, già era lontano. Insomma, è un romanzo. Facci sapere come va a finire, Massimiliano, anche se più o meno non abbiamo un'idea. Grazie mille. Ciao, grazie. Buona giornata. Anch'io l'ho ritrovato. In realtà non l'ho ritrovato perché mia nonna lo conserva tra i suoi libri. È un libro che parla proprio di El Alamein ed è appuntato tutto da mio nonno, che è stato anche lui in Libia e che quindi si scriveva tutte le cose, però lui a posteriori. Quando era tornato si scriveva le cose che aveva visto e da cui era sopravvissuto tornando perché l'avevano ferito leggermente ad una mano e diceva qual era la mia fortuna. Io in soffitta ho trovato una vertebra, non oso pensare di chi. Luis di Treviso. In una casa di montagna dove abitavano dei miei parenti ho trovato un fucile da caccia. Né mio padre né mio nonno erano cacciatori, l'ho denunciato ai carabinieri e hanno dovuto a malincuore distruggerlo perché non era registrato, ma valeva dei soldi. Ho fatto bene? Ma... scrive proprio ma Marco, non lo so se hai fatto bene Marco. Andiamo però a Pistoia da Rosa. Pronto Rosa? Pronto, buonasera. Buonasera Rosa, come sta? Bene, grazie, lei? Mi dà del lei, quindi... Io do del tu. Diamoci del tu Rosa, diamoci, posso darti del tu. Grazie mille. Quanti anni abbiamo Rosa noi due? Io 35. Quasi 7. Quasi 70? Sì. Ah, ok, credevo quasi 37 perché 6, ho detto io 38. 6-8, Rosa, benissimo. Ma che cosa hai trovato tu invece? Io ho trovato circa 24 anni fa, perché la mamma è morta 24 anni fa, tra le sue cose, un contratto che lei aveva stipulato da giovane, cioè non neanche lei, l'aveva stipulato il babbo. E poi lei e la sorella l'avevano firmato, dove le dava a sua sorella due pecore in come si può dire? Ma chi, perdonami Rosa, chi dava a chi le pecore? La mia mamma dava a sua sorella. Alla sorella? Due pecore per tenerle, per fare un po' di branco, di cui lei le avrebbe dovuto restituire un agnello ogni due anni. Ma erano passati, quando ho trovato questo, 50 anni. E beh, immagino, cioè era una forma di interesse fondamentalmente. Sì, allora si usava così perché era giusto prima della guerra. Ma quindi anche tua zia Rosa non c'era più quando hai scoperto? No, mia zia c'era. E lei se lo ricordava? Io non gliel'ho chiesto. Siccome siamo tanti fratelli, eravamo tanti fratelli e con tante idee, io l'ho distrutto. Certo. Ah, l'hai distrutto proprio? Sì, l'ho distrutto per non trovarti in delle discussioni. Certo, meglio che quando ci sono in ballo i soldi tra parenti, Rosa? È vero. vero. Grazie mille Rosa, buona giornata. Grazie, ciao, alla prossima, grazie. La mia casetta nel comune di Zeme, in Lomellina, si dice fosse a inizio secolo la farmacia del paese. Nel sotterraneo, all'interno del rustico in giardino, che ne era il magazzino, dice il mio medico che si conservavano i medicinali di allora per tenerli a giusta temperatura. Io dubito che si conservassero solo i medicinali. Ora l'accesso a quel sotterraneo all'interno del rustico è murato e io mica lo apro. Giuseppe, vedi tu. Andiamo però a Firenze da Michele. Pronto Michele? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Tutto bene? Insomma, sì, sono, chiedo scusa per la voce, sono un po' raffreddato, un po' parecchio, insomma. Un po', scusami? Un po' parecchio raffreddato. Ah, vabbè, ma non c'è nessun problema. Tanto tu non la usi per lavorare la voce, giusto? Sì, invece un po' sì. Che lavoro fai? Sono responsabile di un impianto natatorio, una piscina. Ma non che sei il bagnino? Si fa anche quello quando capita, certo. Ma è una piscina sì. Comunale? No, è una struttura privata. Ah, ok, quindi... Una struttura privata a Firenze, molto importante. Va bene. Senti, andiamo al dunque, Michele, perché qui mi dicono che sì. Il tempo stringe. Tu cosa hai trovato? La mia storia non è così interessante. Ho trovato fra le varie scatole che sì. C'erano rimaste una bella collezione di VHS di materiale pornografico. E di chi era questi porno? Ma lo strano è che il mio proprietario di casa sostiene che prima di me ci fosse una ragazza qui in casa, perché magari non erano suoi. Ma sinceramente di solito questo tipo di materiale qui è molto più maschile. Beh, di solito sì. Michele, grazie mille e prego, in bocca al lupo per la degenza. Grazie. Ciao, alla prossima. Prima mi è arrivato un messaggio invece che diceva: ciao, siamo un gruppo di restauratrici che nascondono biglietti segreti nei muri che restaurano e sopra ci scriviamo i nostri nomi. Vuoi sapere quali sono? SLSMA. Abbiamo al telefono chi? S, credo. Pronto? S. S. Ciao, che S sei? S di Silvia. S di Silvia, invece le altre sono? Ti devo dire tutti i nomi? Sono quattro. Luciana. Sì. Michela. Sì. Simonetta. Mi dici esattamente cos'è questa storia che infilate dei biglietti segreti nei muri? Perché facciamo il lavoro delle restauratrici, quindi ci troviamo tutti i giorni di fronte a tanti muri affrescati e meravigliosi, e come troviamo tantissimi oggetti, perché la storia ne riporta sempre tanti, così pensiamo di metterci qualcosa anche noi, di nostro. E ogni tanto è capitato che all'interno dei grandi fori, delle grandi prese d'aria che troviamo, ci abbiamo messo una bottiglia di vetro e dentro è inserito un biglietto e murato. E cosa c'era scritto su questo biglietto? Le nostre firme. Ah, semplicemente, semplicemente degli autografi? No, sì. Senti, invece noi. Silvia, velocemente, mi dici una cosa che hai ritrovato al di là degli affreschi nei muri? C'era prima chi ti ha chiamato, ti ha scritto un messaggio perché ha ritrovato una vertebra, noi abbiamo ritrovato una falange di un dito. Silvia, grazie mille, un saluto a te e a Luciana e alle altre due. Ciao grazie mille, buona giornata. Grazie a lei, grazie però anche a Paolino Corleone, a Vittoria Mussini, a Tiziano Boni e ad Alessandro Genovesi. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?